coup de théâtre, un suicidio politico del Partito Democratico, che inserisce in una legge che nulla ha a che fare con le tecniche di procreazione medicalmente assistita, un emendamento che stigmatizza la comunità omosessuale con la GPA paragonata alla violenza sessuale, come se uno la GPA fosse un tema della comunità omosessuale, cosa che evidentemente non è, perché il 90% delle coppie che usano questa tecnica sono coppie eterosessuali. E due, riusciamo a fare una roba così incredibile da utilizzare una legge che dovrebbe tutelare quelle persone per stigmatizzarle, cioè per caricarle di un motivo in più di discriminazione. È una roba che tra l'altro non sono convinto venga dall'area Cattodem, perché quello che si dice in queste ore è che tutto il gruppo, ad eccezione di Mori, di Mummolo, sostiene questa cosa, quindi è invece una cosa mossa dalla leadership del partito. Cattodem in questo caso sono, come dire, uno spauracchio utilizzato, e questo lo rende ancora più grave, perché noi sul finire del 2018 avevamo fatto un picchetto in regione, e al termine di quel picchetto eravamo stati ricevuti da Calandro e Calvano, che ci avevano fatto dato garanzia che ci avrebbero riconvocati per un incontro per darci ragione di dell'avanzamento della legge. Sollecitati per quell'incontro per mesi, ci è stato negato dicendo: non abbiamo niente da dirvi. E questo non l'hanno fatto i Cattodem, l'hanno fatto il segretario del Partito Democratico e il capogruppo del Partito Democratico. Oggi scopriamo che forse qualcosa da dire c'era, e che forse al posto del nostro incontro se ne sono tenuti altri. È molto strano sfilare nel controllo di Verona e poi scrivere emendamenti con quelli che vanno a fare il congresso a Verona. Questo è molto strano, soprattutto in vista del presidio che ci sarà in regione giovedì. Possiamo quindi dire che c'è un problema culturale nel Partito Democratico a questo punto? Enorme, perché ricordiamoci che questo stiamo nominando tutti maschi, tutte persone senza utero, quindi stiamo parlando dei maschi che usano i corpi delle donne come merce di scambio politico. Questa è una cosa che oggi Susanna Zaccaria, l'assessore, sottolinea, ed è il punto politico della questione. Siamo all'ennesimo scambio politico sul corpo delle donne, stiamo stabilendo un prezzo per i diritti, e questa è una cosa gravissima che va nelle... immaginiamoci cosa diventa quell'emendamento nelle mani di sindaci di destra, sindaci, come dire, reazionari, eccetera eccetera. Questa roba qua è una roba esplosiva, che è in linea tra l'altro con quello che ha fatto Salvini pochi giorni fa nella Gazzetta Ufficiale, di cancellare le famiglie arcobaleno stigmatizzandole sulle carte d'identità dei figli. È esattamente coerente con quel provvedimento, una mossa, un suicidio politico in vista delle elezioni regionali di inaudita gravità. Questo emendamento dovrebbe essere discusso in commissione, c'è qualche speranza che alla fine si torni indietro? La speranza è l'ultima a morire. Quello che è molto molto molto grave è che credevamo che il Partito Democratico si stesse aprendo a una nuova stagione, invece si dimostra ancora vittima degli stessi ragionamenti. E ripeto, attenzione, qui non si tratta di essere pro o contro la gestazione per altri, questo è un tema molto complesso che va attraversato nelle sedi opportune, con le voci opportune, che non sono innanzitutto quelle dei maschi, questo va chiarito, quindi non sono io a dover dire pro o contro, ma non è Calvano e non è Caliandro a dover dire pro o contro, sono le donne che devono arrivare a una sintesi su questo tema, e con il tempo che riterranno opportuno e con le modalità che riterranno opportuno. Questo caricare di un giudizio morale una pratica semplicemente per uno scambio politico, perché poi infatti quella roba lì non significa niente. Se non la minaccia, attenzione, se ne parli ti tolgo i finanziamenti. Questa è una delle robe più di destra che io abbia mai visto in una legge. Lasciamo fare la destra e le destre.